Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Qualche puntata fa ci siamo occupati di come lo studio delle cozze ci stia aiutando a mettere a punto delle supercolle capaci di far presa sott'acqua. Oggi parliamo del problema complementare, quello cioè di mantenere lubrificata una superficie in un mezzo acquoso. E ancora una volta la biomimetica, ossia lo studio di soluzioni derivate dalla natura, sembra portarci nella direzione giusta. Benvenuto al nostro esperto di cozze lubrificanti subacquei, Bruno Zappone, ricercatore del CNR Nanotech di Cosenza. Buonasera Bruno. Buonasera. Allora, come prima cosa, facci capire a che cosa potrebbero servire delle superfici antiadesive oppure dei materiali lubrificanti che funzionano sott'acqua. Si va dalla lubrificazione di, ad esempio, superfici che si muovono sott'acqua come lo scafo delle navi, ma anche all'interno di tubi che devono trasportare liquidi vari, acqua, olio, petrolio. Ma avendo a disposizione delle superfici antiadesive o lubrificanti sarebbe possibile immaginare dei tipi innovativi di sonde mediche, impianti medici oppure stent, valvole cardiache, oppure ancora delle superfici antighiaccio o superfici che respingono l'adesione di agenti indesiderati, quali possono essere ad esempio polveri oppure oli, oppure per restare in ambito medico il sangue, e quindi superfici che potrebbero aiutare a prevenire il coagulo e quindi fenomeni di trombosi. Di trombosi, migliorare la biocompatibilità di tutti gli innesti, mantenere superfici pulite che magari sono soggette agli agenti atmosferici, insomma veramente di tutto. Ecco, e c'è un caso molto ben noto in natura, quello delle ninfee del fiore di loto, le cui foglie appunto non si bagnano perché hanno una superficie, lo ricordo agli ascoltatori, ricoperta da una specie di peluria microscopica su cui le gocce d'acqua appunto non aderiscono, rotolano via, lavando anche l'eventuale sporcizia. E ci sono, ne abbiamo parlato, dei nanomateriali che possono conferire queste proprietà a varie superfici, un po' tutte, ma questi nanomateriali insomma sono fragili, non funzionano ad alta pressione e non hanno alcuna capacità di auto ripararsi. Invece ad Harvard hanno sviluppato qualcosa di completamente nuovo e tu sei qui per parlarcene. Sì, infatti ad Harvard questa volta si sono ispirati ad una pianta carnivora che si chiama Nepenthes, nota anche come la pianta a forma di brocca, che ha questa sorta di organo a forma di vaso in cui finiscono gli insetti di cui la pianta si nutre. E il motivo per cui gli insetti finiscono dentro è perché questo vaso è costituito di un materiale fortemente idratato, la cui superficie è ricoperta da un velo di acqua su cui ovviamente i malcapitati insetti non riescono a fare presa. E certo, perché si dovrebbero letteralmente arrampicare sull'acqua, no? Non ce la fanno, poveri. Non riescono a fare presa sull'acqua, esattamente. Ora, gli studiosi di Harvard hanno ripreso quest'idea e l'hanno riformulata su una base sintetica, sostituendo al tessuto poroso della pianta carnivora una specie di, chiamiamolo una spugna, un tessuto fibroso fatto con fibre. Sì, ricorda un po' i nidi di rondine, quelli di pasta all'uovo, per capirsi come struttura, no? Esattamente, sarebbero poco appetibili questi nidi di rondine perché sono a base di resine epossidica. Vabbè. Sì, sostanzialmente è così, è una struttura fibrosa con una altissima porosità che è imbibita di un liquido. Impregnata di un liquido che può essere di vario tipo e a seconda del tipo di liquido conferisce idrofobicità oppure altre caratteristiche, no? Cioè sì. Può respingere l'acqua, ma anche l'olio, il petrolio per esempio di un tubo. Esattamente. Uno degli interessi di questo tipo di approccio, per capirci in relazione allo studio precedente sulle foglie di loto, è che a seconda del liquido che viene, con cui viene intriso il materiale si possono avere delle proprietà diverse, idrorepellenti, oliorepellenti, ma addirittura si possono creare delle superfici omnifobiche, cioè che hanno la capacità di respingere liquidi di varia natura, che includono quindi non solo l'acqua e l'olio, ma anche gli acidi e anche gli alcoli. Quindi aprendo delle possibilità di applicazione in ambiti che prima non erano accessibili. Tra l'altro questo nuovo approccio alla fabbricazione di superfici omnifobiche aiuta a superare alcuni dei limiti dei materiali ispirati alla foglia di loto. In particolare questi materiali si autoriparano perché semplicemente facendo un taglio in questa struttura fibrosa e porosa il taglio viene immediatamente riempito nuovamente del liquido di cui è imbibita la struttura. E questo per degli impianti, per esempio nel corpo umano, è assolutamente necessario, ma in generale per garantire la durata di questi trattamenti, di queste superfici. Esatto. Il secondo vantaggio è che questi materiali riescono a resistere a pressioni di fluido che sono molto maggiori e si possono fare delle superfici trasparenti, quindi per applicazioni anche nell'ottica. Una delle applicazioni dei materiali ottici, ad esempio, sarebbe quella di creare dei pannelli autopulenti da depositare sui pannelli solari. Va bene, grazie Bruno Zappone. Grazie a voi. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento come sempre. A domani.